Veniva ancora nelle vacanze a Torino e portava i bambini con sé. Quando le chiedevamo dove erano i bambini, prendeva un'aria distratta e svagata e diceva che non si ricordava bene dove li avesse lasciati. Le piaceva darci da intendere che li mandava da soli a giocare in strada. In verità i bambini erano al giardino pubblico con la nonna e la bambinaia che li guardavano. E lei li andava a riprendere appena veniva buio, con sciarpe e berretti, essendo diventata, senza accorgersene e senza confessarlo né a sé né a nessuno, una madre tenera, scrupolosa e apprensiva. Lisetta fingeva sempre d'essere in polemica per motivi politici col marito. In verità era col marito mite come un agnello e sostanzialmente incapace di avere un'opinione diversa da lui. D'altronde non c'era, fra le loro opinioni politiche, nessuna differenza reale. Il Partito d'Azione, il PDA, s'era ormai perso nella notte dei tempi e non esisteva più alcuna traccia all'intorno. Ma Lisetta dichiarava sempre di vedere la sua ombra profilarsi dovunque e specialmente fra le pareti di casa sua. Non appena i suoi figli cominciarono a ragionare, lei entrò subito in polemica anche con loro, soprattutto con la bambina più grande, che era sentenziosa e sarcastica e la rimbeccava aspramente. Così che discutevano a lungo, madre e figlia, davanti a un piatto di carne, tirando in ballo i poveri e i ricchi, le sinistre e le destre, Stalin, i preti e Gesù. «Non fare tanto la contessa», diceva Lisetta alla sua amica Lola quando la vedeva ingioiellarsi e tingersi davanti allo specchio. Finiva poi per darsi anche lei un po' di nero agli occhi, poco, appena appena, e uscivano sul corso Re Umberto, sui viali. Lisetta con l'impermeabile aperto e i magri piedi fanciulleschi nudi nei sandali, Lola col suo paltò nero attillato dai grossi bottoni, la spilla puntata sul bavero, il naso aquilino proteso a tagliare l'aria, l'antico passo dondolante e sdegnoso. Andavano alla casa editrice. Trovavano Balbo nel corridoio a parlare o con qualche prete, o con Mottura, o con uno di quei suoi amici che l'avevano seguito da casa. «Sta troppo coi preti», diceva Lisetta di Balbo. «Ne ha troppi!» Di lui non diceva «ha una mentalità da PDA». Era anzi una delle poche persone di cui non lo dicesse. E Balbo a volte l'accusava d'essere lei stessa un po' PDA, l'accusava di essere forse l'ultimo PDA rimasto ancora in giro. Lei invece lo accusava d'essere troppo cattolico ed era tuttavia disposta a perdonarlo per questo, come non avrebbe perdonato per questo nessuno al mondo, perché conservava ancora della propria infanzia il ricordo di quando Balbo la affascinava con la sua loquela, venendo a portarle la domenica i libri di croce. «Un conte, in fondo è un conte. In fondo sono un conte e una contessa», diceva Lisetta pensando ai Balbo quando era a Roma, lontano da loro. Vedeva a Roma altri amici che le piacevano molto di meno e con i quali non aveva contrasti, ma neppure stretti vincoli di memorie, con i quali in verità s'annoiava un poco, ma non lo confessava a se stessa. Il fatto che Balbo fosse di famiglia nobile, che fosse cattolico, le sembrava da lontano far vacillare tutti i ragionamenti che lui le teneva quando si incontravano. Ma ogni volta che tornava a Torino, la casa dei Balbo l'attraeva con prepotenza e tuttavia non era capace di dire a se stessa la verità e dire «Sono miei amici e gli voglio bene e non me ne importa niente se le loro opinioni siano vere o false. Non me ne importa niente che a lui gli piacciano tanto i preti». Perché nella sua natura ingenua, tenera, infantile, le opinioni e le idee sue e degli altri germogliavano e ramificavano come grandi alberi fronzuti, nascondendo e coprendo al suo sguardo il chiaro specchio della sua stessa anima. Balbo, quando smetteva un momento di discutere con quei suoi amici, esponeva a Pavese a me le sue idee sul nostro modo di scrivere. Pavese lo ascoltava seduto in poltrona, sotto il lume, fumando la pipa, con un sorriso maligno. E di tutte le cose che Balbo gli diceva, lui diceva che già le sapeva da lunghissimo tempo. Ascoltava tuttavia con vivo piacere. Aveva sempre, nei rapporti con noi suoi amici, un fondo ironico e usava noi suoi amici commentarci e conoscerci con ironia. E questa ironia, che era forse tra le cose più belle che aveva, non sapeva mai portarla nelle cose che più gli stavano a cuore, non nei suoi rapporti con le donne di cui si innamorava e non nei suoi libri. La portava soltanto nell'amicizia, perché l'amicizia era in lui un sentimento naturale e in qualche modo sbadato, era cioè qualcosa a cui non dava un'eccessiva importanza. Nell'amore e anche nello scrivere si buttava con tale stato d'animo di febbre e di calcolo da non saperne mai ridere e da non essere mai per intero se stesso. E a volte, quando io ora penso a lui, la sua ironia è la cosa di lui che più ricordo e piango, perché non esiste più. Non ce n'è ombra nei suoi libri e non è dato ritrovarla altrove che nel baleno di quel suo maligno sorriso. Quanto a me, ero profondamente assetata di sentir parlare dei miei libri. Le parole di Balbo mi apparivano a volte di una penetrazione folgorante. Sapevo tuttavia molto bene che usava leggere dei libri solo qualche riga. Non c'era nelle sue giornate né tempo né spazio per la lettura, ma lui suppliva la mancanza di tempo e di spazio con un prontissimo e acutissimo intuito che lo portava a formarsi un giudizio col semplice soccorso di poche frasi. A distanza mi accadeva a volte di odiare quel suo modo di formarsi un giudizio e lo accusavo d'essere superficiale. Avevo però torto, perché lui era tutto fuorché generico e superficiale. Non avrebbe potuto trarre da un'attenta e prolungata lettura un giudizio più completo e profondo. Di generico e superficiale nei suoi commenti sui libri o sulle persone c'erano soltanto i consigli pratici, perché lui di consigli pratici non ne sapeva dare né agli altri né a se stesso. Il consiglio pratico che dava a me quando commentava i miei libri o quando mi vedeva malinconica era di frequentare più attivamente le riunioni di cellula o di sezione del Partito Comunista al quale io allora appartenevo. Quello gli sembrava per me un mezzo per aprirmi un valico nel mondo reale da cui mi diceva distaccata. Ed era d'altronde allora, negli anni del dopoguerra, opinione assai diffusa che gli scrittori dovessero, attraverso i partiti di sinistra, spezzare il loro cerchio d'ombra e mescolarsi alla viva realtà. Questo suo consiglio, io allora non ero in grado di dichiararlo sbagliato, ma semplicemente mi sentivo più infelice e del tutto disorientata. E tuttavia gli obbedivo e andavo a quelle riunioni che trovavo nell'intimità del mio spirito e senza essere in grado di confessarlo, tristi e noiose. Capii più tardi che i suoi consigli pratici non bisognava in alcun modo seguirli. Era necessario liberare di ogni suggerimento pratico le sue parole. Spogliate di ogni contenuto pratico, le sue parole erano indicative e feconde. Ma io allora mi sentivo spinta a seguirlo passo passo e a commettere passo passo gli stessi errori che lui commetteva. Quanto a Pavese, commetteva altri errori per conto suo, ma non i medesimi, e incespicava su altre strade, dove camminava solo, con attitudine sprezzante e caparbia e con animo dolente e mite. Pavese commetteva errori più gravi dei nostri, perché i nostri errori erano generati da impulso, imprudenza, stupidità e candore. E invece gli errori di Pavese nascevano dalla prudenza, dall'astuzia, dal calcolo e dall'intelligenza. Nulla è pericoloso come questa sorta di errori. Possono essere, come lo furono per lui, mortali, perché dalle strade che si sbagliano per astuzia è difficile ritornare. Gli errori che si commettono per astuzia ci avviluppano strettamente. L'astuzia mette in noi radici più ferme che non la ventatezza o l'imprudenza. Come sciogliersi da quei legami così tenaci, così stretti, così profondi? La prudenza, il calcolo, l'astuzia hanno il volto della ragione, il volto, la voce amara della ragione che argomenta con i suoi argomenti infallibili, ai quali non c'è nulla da rispondere, non c'è che assentire. Pavese si uccise un'estate che non c'era a Torino nessuno di noi. Aveva preparato e calcolato le circostanze che riguardavano la sua morte come uno che prepara e predispone il corso di una passeggiata o di una serata. Non amava vi fosse nelle passeggiate e nelle serate nulla di imprevisto o di casuale. Quando andavamo, lui, io, i Balbo e l'editore, a far passeggiate in collina, si irritava moltissimo se qualcosa deviava il corso da lui predisposto, se qualcuno arrivava tardi all'appuntamento, se cambiavamo all'improvviso il programma, se si aggiungeva a noi una persona imprevista, se una circostanza fortuita ci portava a mangiare invece che nella trattoria che lui aveva prescelto, nella casa di qualche conoscente incontrato inaspettatamente per strada. L'imprevisto lo metteva a disagio. Non amava essere colto di sorpresa. Aveva parlato per anni di uccidersi. Nessuno gli credette mai. Quando veniva da me e da Leone mangiando ciliegie e i tedeschi prendevano la Francia, già allora ne parlava. Non per la Francia, non per i tedeschi, non per la guerra che stava investendo l'Italia. Della guerra aveva paura, ma non abbastanza per uccidersi a motivo della guerra. Continuò tuttavia ad avere paura della guerra anche dopo che la guerra era da gran tempo finita, come del resto noi tutti. Perché questo ci accade, che appena finita la guerra, ricominciammo subito ad avere paura di una nuova guerra e a pensarci sempre. E lui temeva una nuova guerra più di tutti noi, e in lui la paura era più grande che in noi. Era in lui la paura, il vortice dell'imprevisto e dell'inconoscibile, che sembrava orrendo alla lucidità del suo pensiero, acque buie, vorticose e venefiche sulle rive spoglie della sua vita. Non aveva in fondo per uccidersi alcun motivo reale, ma compose insieme più motivi e ne calcolò la somma con precisione fulminea, e ancora li compose insieme e ancora vide, assentendo col suo sorriso maligno, che il risultato era identico e quindi esatto. Guardò anche oltre la sua vita, nei nostri giorni futuri, guardò come si sarebbe comportata la gente nei confronti dei suoi libri e della sua memoria. Guardò oltre la morte, come quelli che amano la vita e non sanno staccarsene, e pur pensando alla morte, vanno immaginando non la morte, ma la vita. Lui tuttavia non amava la vita, e quel suo guardare oltre la sua propria morte non era amore per la vita, ma un pronto calcolo di circostanze, perché nulla, nemmeno dopo morto, potesse coglierlo di sorpresa. Thank you. Anna Bonaiuto ha letto Lessico familiare di Natalia Ginzburg. A cura di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini, regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it.